GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ventiseimila occupati in più in regione nel primo semestre 2022 rispetto a un anno fa, vola l'export più 31%. A Trieste via le udienze sulla condotta di Barzi, la respinte le condizioni anticoncorrenza sullo stabilimento di Bagnoli. Il comune di Udine taglia le bollette, probabile chiusura per la piscina di via Pradamano, al Carnera temperature ridotte. Poche adesioni per il vaccino bivalente anti-Covid ieri, poco più di 550, solo 15 sanitari prenotati. Centro Congressi di Trieste, il più grande del Nord-Est, agenda piena per 4 anni e c'è il progetto Parco del Porto Vecchio. Con altre piogge sarà di nuovo rischio esondazioni e allagamenti. Per i geologi necessaria più cura delle reti idriche. Ecco Pordenone Legge, quasi 600 protagonisti e oltre 320, tra poco il via alla festa del libro con gli autori. Dottori di ricerca all'Università di Trieste Udine, meglio della media italiana, quasi tutti trovano lavoro entro un anno. 7:19 minuti di mercoledì 14 settembre, buongiorno da Francesca Terranova, Daniele Lettige e Rita Micoli che conducono questa prima edizione del giornale radio regionale. Subito uno sguardo alla situazione meteo, il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 21 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi e mezzo. A Udine 21 gradi, a Pordenone 20, a Gorizia 19, a Tolmezzo 19 gradi, a Tarvisio e a Forni di Sopra 15, a Sappada 13 gradi e mezzo, sul Piancavallo 12 gradi, sul Monte Zoncolano 11 gradi, sul Lussari 10 gradi e mezzo, sulla costa Lignano e Grado 23 gradi, temperatura del mare nelle due località 23 gradi. Le previsioni sulla costa, il cielo è in genere poco nuvoloso variabile con vento da sud o sud-ovest moderato. In pianura nuvolosità variabile, sui monti il cielo da nuvoloso a coperto con qualche debole pioggia. Tempo migliore nel Tarvisiano e verso il Cadore, verso sera temporali sulle Prealpi Giulie e poi probabilmente sparsi anche sulle altre zone montane e localmente in pianura, specialmente orientale. È la fotografia dell'economia del Friuli Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno, con un incremento degli occupati di oltre 5 punti, che significano 26.000 posti in più. E l'export vola rispetto a un anno fa. Il servizio. Occupazione ed export in crescita nel primo semestre del 2022, dati più che positivi per la nostra regione che si inseriscono in una fase di superamento della crisi sanitaria ma che tuttavia non registrano ancora le difficoltà e le incertezze per il futuro vissute negli ultimi mesi dalle imprese e dalle famiglie a causa della crisi energetica e dell'inflazione. Il numero medio di occupati stimato dall'Istat in Friuli Venezia Giulia è pari a quasi 527.000 unità, 26.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando l'economia era ancora negativamente condizionata dalle restrizioni introdotte per fronteggiare la pandemia. Una ripresa che ha riguardato esclusivamente il lavoro dipendente, mentre quello autonomo è rimasto sostanzialmente stabile. I settori che hanno contribuito positivamente sono l'industria, il commercio, alberghi e ristoranti. Il tasso di occupazione regionale nel secondo trimestre di quest'anno ha superato il 70%. A livello nazionale solo la provincia di Bolzano presenta un valore più elevato. Diminuiscono i disoccupati, gli inattivi, che durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria erano invece aumentati per effetto dei maggiori carichi familiari, soprattutto per le donne con figli a seguito della chiusura delle scuole, e dell'export in particolare a crescere del 30%, un risultato in parte determinato dall'andamento della cantieristica navale. Buone notizie anche dal fronte dell'agricoltura, uno dei pochi settori in cui i giovani occupati con meno di 34 anni aumentano con un balzo di ben 19.000 unità rispetto a prima della pandemia. E quanto afferma la Coldiretti su rilevazione Istat nel secondo trimestre del 2022, con la crisi provocata dall'emergenza sanitaria, il settore è diventato di fatto il punto di riferimento importante per le nuove generazioni che hanno rivoluzionato il mestiere dell'agricoltore impegnandosi in attività più innovative. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il rafforzamento degli ammortizzatori e delle politiche salariali è una delle grandi priorità per il Paese e quindi anche per il Friuli Venezia Giulia, così il segretario generale della CGIL regionale William Pezzetta relativamente ai dati Istat sull'andamento del mercato del lavoro, dati che in Friuli Venezia Giulia evidenziano, sottolinea, nei primi due trimestri dell'anno la crescita degli attivi e il calo della disoccupazione che scende dal 5,2 al 4,6%. Crisi Wärtsilä, dopo il piano di mitigazione del gruppo finlandese respinto come inaccettabile dai sindacati, ora si aspettano le mosse del governo e oggi è prevista la prima udienza del procedimento per comportamento antisindacale intentato dalle sigle sindacali, cui ha aderito anche la regione. Nessuna sorpresa, è netta la bocciatura dei sindacati nei confronti del piano presentato da Wärtsilä, che conferma la chiusura del reparto produttivo a Trieste. Un piano fatto sul nulla, perché si parla di incentivi all'esodo, si parla di riqualifica, si parla di un anno di cassa integrazione e si mettono semplicemente dei paletti a quello che è il percorso di reindustrializzazione. Tra gli aspetti più controversi ci sono proprio i paletti messi nero su bianco sulla vendita del sito che i finlandesi non vorrebbero cedere a concorrenti. In più, la multinazionale è interessata a mantenere attività in alcune aree del capannone, che il compratore dovrebbe dunque lasciar loro in affitto. La scadenza per la discussione del piano potrebbe però spostarsi da ottobre a gennaio. Il già annunciato emendamento antidelocalizzazioni, che estende i tempi e incrementa le multe, dovrebbe essere inserito nel decreto aiuti ter e approvato in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. Intanto il prefetto Annunziato Vardè ha incontrato i sindacati confederali e il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino per parlare dei 12 motori acquistati dalla sudcoreana Daewoo bloccati nei pressi del canale navigabile. Massimo riserbo sui contenuti di una novità che Michele Piga della CGIL giudica positiva e che potrebbe convincere i sindacati a far partire i propulsori. Nel frattempo, occhi puntati sul Tribunale di Trieste per la prima udienza per condotta antisindacale contro Wärtsilä, un'iniziativa promossa da CGIL, CISL e UIL e a cui si è unita la Regione, che ha presentato a sua volta un ricorso che sarà discusso a fine mese. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Riunione a Fiume della Giunta di Udine ieri pomeriggio per valutare possibili tagli ai consumi degli edifici comunali. I tecnici hanno effettuato una valutazione scuola per scuola, ufficio per ufficio, esaminato i consumi di parchi, strade, uffici pubblici, servizi, impianti sportivi. È stato fatto un calcolo dei risparmi possibili sulla base del decreto Cingolani, che prevede un abbassamento delle temperature nei luoghi pubblici. Il risparmio si aggirerebbe sui 250.000 euro, una cifra che il comune intende però almeno raddoppiare, considerato che la bolletta è passata da 5 a 10 milioni di euro e che sono già stati spenti 1.300 punti luce in città. Sotto la lente, fanno sapere il sindaco Fontanini e il vice sindaco Michelini, ci sono i complessi più energivori come le due piscine comunali ma anche il Palasport Carnera. Escludendo le scuole, dove la temperatura passerà da 20 a 19 gradi e dove gli spazi di manovra sono comunque relativi, come da decreto è stato quindi deciso di tenere aperta la piscina di Via Ampezzo, mentre quella di Via Pradamano probabilmente verrà chiusa. Al Carnera, è stato ancora detto, saranno abbassate drasticamente le temperature sia per gli allenamenti che per le partite. Un'altra decisione che il comune potrebbe prendere è quella di chiudere ulteriori punti luce dopo la mezzanotte. A strettissimo giro ogni assessore valuterà i possibili tagli nelle sue aree operative e poi in un prossimo incontro in tempi brevi l'amministrazione deciderà come e in che modo operare i risparmi di energia. Convocata per oggi alle 14.30 dal presidente Massimiliano Fedriga la conferenza delle regioni. All'ordine del giorno i temi che saranno affrontati dalla conferenza unificata e dalla conferenza Stato-Regioni, che inizieranno alle 17. Tra questi una proposta di documento sull'impatto del caro energia sul tessuto produttivo. Disponibile anche in Friuli Venezia Giulia il nuovo vaccino bivalente anti-Covid. Le somministrazioni sono cominciate, ma la risposta al momento appare tiepida. Ancora poche le prenotazioni per il nuovo vaccino bivalente anti-Covid, 552 quelle registrate alle 12 di ieri, stando ai dati in SIEL, la maggior parte delle richieste, 212, sono arrivate dalla fascia 70-79 anni, segue quella tra i 60 e i 69, 151 prenotazioni, e gli ultra ottantenni, un centinaio. Scarsa l'adesione tra i più giovani, tra i 12 e i 59 anni, che pure possono ricevere il vaccino aggiornato, e mancano all'appello i sanitari, che sempre ieri mattina si sono prenotati prenotati in appena 15. Da lunedì intanto il nuovo vaccino viene già proposto e somministrato a quanti si sottopongono al booster, ovvero al richiamo con terza o quarta dose nei centri vaccinali attivi sul territorio, a Trieste in centrale idrodinamica, a Gorizia e Udine in fiera, a Palmanova, Tolmezzo e Monfalcone in ospedale, a Pordenone nella cittadella della salute, a Maniago, all'ex Ipsia e a Sacile nel distretto sanitario, disponibile anche nei vari centri convenzionati. Ci credo. Poi questo è anche quello, l'ultimo tipo, quello bivalente, che protegge anche dalle versioni Omicron 5. Prendere il Covid non mi piace, non l'ho avuto e non lo voglio avere se posso. Ho scelto di farla perché, avendo soggetti fragili in famiglia, credo che era molto opportuno farli. Dalla domanda dipende il potenziamento delle sedi vaccinali. La vaccinazione col vaccino bivalente è aperta anche alle donne in gravidanza ed è raccomandata in particolare ai fragili, over 60 e con patologie croniche, e agli operatori sanitari, in tutti i casi, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima dose di vaccino o dall'ultima infezione. È prenotabile agli sportelli CUP attraverso web app o call center e nelle farmacie, dove a breve i vaccini anti-Covid si potranno anche somministrare. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Presentato a Trieste il progetto di parco urbano che attraverserà il Porto Vecchio per arrivare in centro città, e intanto il centro congressi, aperto poco prima dello scoppio della pandemia, fa il punto con le attività organizzate e il bilancio è più che positivo. Passeggiare e correre in bici, immersi nel verde, a due passi dal mare, tra gli affascinanti antichi magazzini di Porto Vecchio. Bisognerà aspettare 4 anni, ma a Trieste sorgerà un polmone verde da 60.000 metri quadrati che partirà da Piazza Unità per raggiungere il lungomare di Barcola. Il progetto, presentato dall'architetto genovese Alfonso Femia, già approvato dal Comune e finanziato con 21 milioni di euro dal PNRR, andrà in gara. Si stima che il cantiere partirà a gennaio 2024 e dovrà terminare entro il 2026. L'idea piace soprattutto a chi in Porto Vecchio già c'è, come Raffaella Colombo, direttore generale del Trieste Convention Center. Noi non veniamo l'ora che Porto Vecchio si popoli, porta traffico di persone, porta uffici, porta mostre, porta eventi, e ognuno per sé, quindi sì. Scorre il calendario del cellulare, l'agenda è piena e ci sono congressi già fissati persino per il 2026. Tra nuovi allestimenti, congressi e fiere, la struttura è in overbooking. Abbiamo un bel calendario di congressi, direi la maggior parte italiani e internazionali. C'è qualcosa di locale, qualche concerto finalmente dedicato ai giovani, e adesso non abbiamo date libere. E tornando al parco lineare, dai viali alberati, piste ciclabili e ciclopedonali lunghe 2 chilometri, parla l'architetto triestino Giovanni Damiani, che ha lavorato al progetto e ai triestini dice: la storia di questa città è una storia di coraggio. Abbiamo distrutto le saline per fare il Borgo Teresiano, abbiamo sventrato completamente questa zona per fare quello che doveva essere il porto più grande del Mediterraneo. E allora perché è un'opportunità? Perché può creare uno spazio molto vivibile in cui le famiglie possono venire, i ragazzi possono giocare, le persone possono camminare, andare in bicicletta, fare delle cose, stare bene. Le cose che arrivano dal futuro sono belle. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il maltempo della scorsa settimana potrebbe concedere una replica nei prossimi giorni, con pioggia battente e temporali, e torna al timore di altri allagamenti, soprattutto nelle città. Il servizio. Quest'anno abbiamo avuto pochissima pioggia, come tutti hanno potuto vedere, e in Friuli invece è una regione piovosa. Quindi se dobbiamo pareggiare il conto, è chiaro che dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi delle piogge importanti, che se saranno ben distribuite non saranno un problema, ma se arriveranno le piogge brevi ed intense, come è già successo a Lignano, come è già successo in molte parti del nord Italia, è chiaro che vedremo veramente delle situazioni di criticità importanti. Con la crisi climatica ci dobbiamo convivere, meglio allora mantenere efficiente la nostra rete drenante. Questo è l'appello dei geologi, come Andrea Mocchiutti, che avete appena sentito, per evitare situazioni come quelle viste a Lignano Sabbiadoro settimana scorsa, quando, come indica il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, l'acqua si è accumulata anche a causa dell'ostruzione delle caditoie stradali. Osservare per correggere in prima persona o segnalare ogni eventuale criticità idraulica. Ce ne sono di piccole, che sono quelle attorno a noi, che sono appunto delle tubazioni che possono essere ostruite, dei canali che possono essere ostruiti, delle caditoie, anche semplicemente la rampa che porta al nostro garage, piuttosto che anche ai pluviali che arrivano giù dal nostro tetto. Le prossime piogge intense potrebbero portare nuove esondazioni in pianura o colate di detriti in montagna. Cautela dunque quando si attraversano zone esondabili. Tra le aree più fragili, quelle dove si sono verificati incendi, più suscettibili ad erosioni, così come versanti montani con pendenza elevata. La rete di smaltimento delle acque, sia quella artificiale ma anche quella naturale, si è calibrata nel tempo ed è stata costruita per parametri che sono diversi da quelli che ci attendiamo, dalle piogge che arriveranno. Già così sarà insufficiente a gestire quelle che sono le piogge derivanti dai cambiamenti climatici. È nostro dovere quindi mantenere tutto in piena efficienza e segnalare quelle che sono le possibili criticità al fine di intervenire, perché l'unico modo che abbiamo è quello di prevenire. Durante l'alluvione è veramente difficile poi metterci mano. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. 7.33, parliamo del grande evento culturale di Pordenone. Sono quasi 600 protagonisti, oltre 300 eventi per la 23esima edizione di Pordenone Legge, che inizia oggi e termina domenica. La festa del libro con gli autori inizia tra poco con gli appuntamenti per le scuole e poi questa sera alle 21 ci saranno tre inaugurazioni in contemporanea. A Pordenone, nello spazio Gabelli, con il vincitore dell'edizione del premio Campiello di quest'anno, Bernardo Zannoni, e con il direttore artistico di Pordenone Legge, Gianmario Villalta. Sempre alle 21 incontro a Lignano, di cui vi parleremo a breve nel prossimo servizio, e infine ci sarà l'inaugurazione a Trieste con Mauro Kovacic insieme all'autore boemo di L'amore ai tempi dei cambiamenti climatici, Panek. Sentiamo la curatrice di Pordenone Legge, Valentina Gasparet. Stiamo partendo, sta per cominciare una 23esima edizione importante, perché vuole essere davvero una ripartenza, non una parola che ormai è molto abusata, ma una vera ripartenza, ricominciare a stare insieme agli incontri, vicini, senza mascherine, con la possibilità di incontrare gli autori preferiti, ma anche quelli più sconosciuti, che possono portare a nuove possibilità, a nuove curiosità. E lo facciamo da questa mattina con gli incontri per i più piccoli e per le scuole di ogni ordine e grado, e poi nel tardo pomeriggio l'inaugurazione ufficiale al Teatro Verdi e in due sedi a Trieste e a Lignano, proprio per abbracciare anche dal mare tutta la regione simbolicamente, con tre appuntamenti dedicati a Praga e allo scambio tra la cultura italiana e la cultura della Repubblica Ceca, quindi con autori cechi che dialogheranno con grandi autori italiani. E da qui fino a domenica è un treno che parte pieno di appuntamenti, di incontri, i maggiori autori italiani, posso ricordare Roberto Saviano sabato in teatro, ma anche De Giovanni, ma anche Daria Bignardi, e poi tantissimi autori stranieri e oltre 50 anteprime, e quindi 50 libri che cominciano il loro viaggio da Pordenone Legge. L'incontro della Terrazza a Mare di Lignano si intitola invece Alla ricerca di storie vere ed è un dialogo tra la scrittrice ceca Markéta Pilatova e il fumettista Matteo Bussola. A intervistarli uno dei curatori di Pordenone Legge, Alberto Garlini, che ci racconta anche degli appuntamenti dedicati dal festival alla letteratura ucraina. All'interno di questo progetto di gemellaggio, di incontro fra due culture diverse ma anche vicine come quella italiana e quella della Repubblica Ceca, ci sarà un incontro tra due importanti scrittori, sono Matteo Bussola, scrittore italiano di bestseller molto molto noto per la sua capacità di cogliere insomma le vibrazioni, i chiaroscuri del nostro vivere contemporaneo, e Markéta Pilatova, che è grande scrittrice della Repubblica Ceca, che ha scritto questo libro straordinario che è Nella giungla con i Bata, che racconta la storia della famiglia Bata, un impero di diciamo calzaturiero che nasce appunto nella Repubblica Ceca, che si diffonde in tutto il mondo, ma che vive le grandi vicissitudini della Seconda Guerra Mondiale, del comunismo, e sarà costretta poi a migrare in Brasile. Ecco, invece riguardo appunto al tema della narrativa, della poesia, insomma della letteratura ucraina, sì, quali sono gli appuntamenti più importanti? Pordenone Legge ha questa caratteristica di essere un affresco del mondo che ci sta intorno. Pordenone Legge, ci sono più di 300 incontri che raccontano quello che succede nelle sue varie sfaccettature. In questo contesto non potevamo non raccontare dell'Ucraina, e quando abbiamo pensato di raccontarlo abbiamo pensato di farlo attraverso delle voci di prima mano, e quindi ci sarà un incontro con due poetesse ucraine, e poi ci sarà un incontro che sarà in presenza, poi ci sarà un incontro con Alexei Nikitin, un famosissimo scrittore ucraino che doveva essere in collegamento da Kiev, invece quasi miracolosamente riusciremo a farla arrivare se tutto va bene. A Pordenone legge molti appuntamenti dedicati ai lettori più giovani in concomitanza con la riapertura delle scuole. Si comincia alle 9 nel convento di San Francesco con la luce di Dante, letture a cura degli allievi del liceo Leopardi Maiorana con gli interventi di Maria Peressi e di Tullio Avoledo. Di scienza, in particolare di matematica, parlerà ai più piccoli la divulgatrice Anna Cerasoli alle 10 nell'auditorium della regione. Per le scuole medie Chiara Carminati invece si cimenterà nel racconto della natura attraverso le poesie di grandi come Eugenio Montale alle 10.30 in Piazza della Motta. E mescolati tra la folla di amanti della lettura ci sono quest'anno ben 196 angeli di Pordenone Legge, ragazze e ragazzi fra i 16 e i 25 anni, un contributo essenziale al buon funzionamento della macchina organizzativa della Festa del Libro. Per la prima volta quest'anno si occuperanno anche di passare a prendere gli ultra ottantenni a casa per accompagnarli agli incontri che desiderano seguire per poi riaccompagnarli a casa. In particolare quello dei dottori di ricerca. I loro tassi di occupazione nelle università di Trieste e Udine sono rispettivamente del 95 e del 92,3% a un anno dal conseguimento del titolo, ben al di sopra della media nazionale che è del 91%. Friuli Venezia Giulia batte Italia. Conseguire un dottorato di ricerca in una delle due università del nostro territorio garantisce ottime opportunità di lavoro. All'Università di Trieste sono 95 su 100 i dottori di ricerca che trovano impiego entro un anno. All'Università di Udine sono 92,3 su 100. In entrambi i casi siamo oltre la media nazionale che si attesta comunque a un ottimo 91%. A certificarlo sono i dati dell'indagine Alma Laurea dedicata agli studenti di terzo livello delle università italiane. Bene le retribuzioni, la prima paga di chi ha conseguito il dottorato a Trieste è di 1637 euro e nell'85% dei casi si tratta di professioni di tipo intellettuale, scientifico o comunque a elevata specializzazione, dove può esserci anche più margine di crescita professionale. Un dato anche più alto per i dottorati di Udine, sono il 90,9% quelli che trovano subito un posto di lavoro altamente qualificato e in questo caso la busta paga è in media di 1732 euro. Ma dove trovano lavoro i nostri dottori di ricerca? La grande maggioranza rimane nel settore pubblico, sono il 68% a Trieste, il 62,5% a Udine contro il 66% della media nazionale. Figure molto richieste anche dall'industria ad elevata specializzazione, 22% per chi proviene da Trieste, il 12,5% per chi proviene da Udine, nel resto d'Italia è il 9%. Notevole anche la tendenza a rimanere a lavorare nel nostro paese. Ben oltre l'80% dei dottori di ricerca resta a vivere e lavorare al nord, mentre varia parecchio la quota di chi opta per l'estero. Sono il 6% dei dottori di ricerca di Trieste, più del doppio, il 14%, quelli di Udine. Trieste, Lorenzo Gervinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Caritas di Gorizia ha presentato la festa del volontario che si celebrerà sabato prossimo al Centro Culturale Bratuš. Tra le molte associazioni che hanno aderito ci sono anche alcune realtà della Slovenia con cui si è sviluppata una collaborazione stretta e proficua. Sarebbe davvero difficile immaginare cosa avrebbe potuto essere la pandemia senza il volontariato, ma questi due anni di impegno incessante e pervasivo hanno prodotto mutamenti anche nell'approccio sociologico all'emergenza e agli interventi conseguenziali. La festa del volontario di sabato 17 settembre quindi non sarà soltanto un gioioso meeting, ma anche e soprattutto un momento per riflettere su questi temi, con due interventi di approfondimento cui parteciperanno la Caritas, le ACLI, la Croce Rossa, l'Associazione Nazionale Alpini, i Forestali, l'Unitalsi, il Centro Missionario Diocesano, il settimanale Voce Isontina e diverse associazioni consorelle dalla vicina Slovenia. Paolo Verdoliva dell'Associazione Nazionale Alpini. Ci siamo accorti che i volontari sono sempre più necessari nell'aiutare il nostro territorio e lo abbiamo visto nelle ultime settimane con gli incendi boschivi che hanno devastato il Carso italiano ma anche quello sloveno e lì c'è stato un ottimo rapporto di collaborazione tra le varie associazioni e le varie entità. Abbiamo visto che i bisogni sono notevolmente cambiati rispetto al passato. Federico Maria Pellegatti della Croce Rossa Italiana. La Croce Rossa durante la post fase ha sempre più stretti rapporti con la componente giovanile del territorio e cito solo un esempio che è quello della partecipazione del liceo Duca degli Abruzzi alla gara di diritto internazionale umanitario a Roma come rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia, portando a casa una grande vittoria, il primo premio e la Coppa Henri Dunant. Renato Nucera della Caritas di Gorizia che organizza l'evento. Abbiamo desiderato fortemente questa festa del volontario per ringraziare tutti i volontari che si sono impegnati in questo tempo, ma anche per ribadire un concetto di libertà. Il volontario è colui che dà il suo tempo nella libertà della sua scelta. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport calcio Serie C, il Pordenone vince a Verona e batte per 2-0 la Virtus, partita equilibrata che si avviava sullo 0-0 verso la fine del primo tempo, quando al 42esimo il Pordenone ha messo a segno l'1-0 con Leonardo Candellone. Subito all'avvio del secondo tempo il Pordenone raddoppia al terzo minuto con un gol di Simone Magnaghi. La difesa blinda il risultato dei Ramarri, 3 punti che riportano i neroverdi in testa al girone insieme a Novara e Propatria. Pareggio invece per la Triestina in trasferta contro la capolista Novara. L'Unione era andata subito in vantaggio con un gol prodezza di Petrelli. Al terzo minuto, punizione respinta dalla barriera e sinistro al volo dell'attaccante. Al 35esimo, il Novara si avvicina al pareggio con Bortolussi che cerca la porta di testa su un assist da destra, ma la palla finisce sul fondo. Nella ripresa, il Novara aggancia la Triestina. Al 37esimo, Carrillo mette al segno l'1-1. Il Novara termina la partita in 10 uomini per l'espulsione al terzo minuto di recupero di Gonzalez per doppia ammonizione. Basket, impegni per le due squadre friulane nella Supercoppa di A2 a Udine, esordio di stagione al Carnera per la Puold Wild West che alle 20 affronta Ferrara. UEB Gesteco Cividale gioca alle 19 al Bella Italia Village di Lignano contro Mantova per il basket femminile. Oggi al Pala Benedetti di Udine alle 18, amichevole tra Delser Women Apu e Velcofin Vicenza. La pallanuoto, sono stati resi noti i calendari e formula del campionato di Serie A1 ai quali Trieste partecipa sia con la squadra maschile sia con quella femminile. Gli uomini esordiranno il 22 ottobre a Salerno, ai play-off vanno le prime 4, mentre un altro tabellone di play-off servirà per stabilire la classifica dal 5° all'8° posto. Retrocede in A2 l'ultima classificata, la seconda squadra retrocessa uscirà dal play-out che coinvolgerà le squadre dal 10° al 13° posto. In campo femminile Trieste esordirà in trasferta contro la SIS Roma, sempre il 22 ottobre. La formula prevede play-off a iniziare dai quarti di finale ai quali parteciperanno le prime 6 classificate. E alle 7.45 incominciamo la rassegna stampa, partiamo dal piccolo di Trieste che apre con le condizioni di Varzi, la niente motori a Bagnoli, questo è il titolo principale, sopra c'è una fotonotizia con il Porto Vecchio come dovrebbe essere tra qualche anno grazie al progetto del parco di cui abbiamo parlato verso l'inizio dell'edizione di questo nostro giornale radio, ed è anche questa la notizia principale di cronaca cittadina sulle pagine interne del piccolo. In prima pagina c'è un richiamo per il set in centro targato Netflix, grandi nomi da Halle Berry a Mark Wahlberg, sono in corso le riprese sempre in notturno tra le rive cittadine e l'area di Ponte Rosso prima della trasferta del set a Pirano. In taglio basso il calcio, Unione, non basta il gol di Petrelli, un pari a Novara. A pagina 13 le novità in tema di sanità regionale e assistenza agli anziani, il titolo case di riposo, nuove regole. La regione cambia i requisiti per garantire l'assistenza agli oltre 37.000 anziani non autosufficienti. Il contributo alla retta per la casa di riposo spetterà anche agli anziani accuditi a domicilio. Le famiglie riceveranno la cifra corrispondente all'abbattimento della retta. Le 95 strutture interessate dalla riforma hanno tempo fino alla fine dell'anno per presentare la domanda di accreditamento. Pensioni, bollette, lavoro, le misure del governo. In apertura sul Messaggero Veneto di Udine, le novità del decreto aiuti bis, mediazione sul superbonus. Nella fotonotizia di centropagina, il cartello di un supermercato cittadino in un anno, bolletta da 8 a 27 mila euro e la decisione di chiudere la domenica. Il tema apre la cronaca cittadina insieme alle ipotesi del comune per tagliare i costi per l'energia. Di spalla la cronaca con la staffetta tra Veneto e Friuli di polizia stradale e sanitari per far arrivare un medicinale per una bambina della destra Tagliamento che aveva ingerito del diluente. Sotto l'aggressione del conducente del bus a Grado ieri mattina, a Mortegliano l'omaggio al pittore Celiberti. In taglio basso il caso di due insegnanti udinesi, dopo il ricorso per un errore nel quiz, ottengono l'ammissione alla prova orale e conquistano la cattedra. Azienda in bilico, commissione a Roma in conferenza delle regioni, le proposte anticrisi al governo. Anche qui l'aggressione di un autista di arriva Udine a Grado e di spalla l'andamento della melicoltura e la fuga del personale Sores dall'azienda sanitaria centrale. Ieri un incontro sugli incentivi. In taglio basso lo sport, nelle pagine interne anche il no al referendum per un parco urbano al posto della linea ferroviaria che attraversa Udine. L'apertura dell'edizione di Gorizia del Piccolo è sull'alleanza dei tre sindaci contro caro bollette, con i primi cittadini di Gorizia, Monfalcone e Cormons, che hanno scritto al presidente del Consiglio Draghi per chiedere di poter usare gli avanzi di bilancio contro i rincari dell'energia. Notizia che apre anche il capocronaca di Gorizia. Al centro una fotonotizia sul Gradisca Calcio, assessori e consiglieri in campo per salvare l'Itala San Marco, che la scorsa domenica aveva chiesto di rinviare la prima partita del campionato di prima categoria per carenza di calciatori. Capocronaca di Monfalcone dedicato alle denunce dei genitori sugli assembramenti degli alunni alla scuola Duca d'Aosta prima dell'inizio delle lezioni, con il comune che chiede di aprire i cancelli mentre la dirigente scolastica dice non è per il Covid, ci sono troppe persone e i controlli sono difficili, il cortile diventi suolo pubblico. A seguire un titolo sulla fortezza di Gradisca di Sonzo dopo la recente visita del ministro della cultura Franceschini. Servirà ancora 1 milione per completare la fortezza, ma bisogna farla conoscere. Sul Gazzettino di Pordenone a centropagina c'è cioè Pordenone legge da oggi a domenica 320 e 600 ospiti. Accanto beve un solvente, corsa l'antidoto, bimba salvata sulla staffetta per consegnare il farmaco del centro antiveleni di Padova. Accanto l'incidente sul lavoro di ieri a Sesto Arreghena, travolta dal camion in retromarcia, grave una donna ricoverata a Udine. Di spalla 2 milioni e mezzo in arrivo per velodromo e palestra a Pordenone e sotto a Sacile un albero abbattuto scatena lo scontro sul verde pubblico. In taglio basso il calcio, i gemelli del gol nero-verdi espugnano Verona e accanto ancora banditi e poliziotti, si gira a Maniago e anche nell'ufficio del vice sindaco a Pordenone. Sul Messaggero Veneto metà pagina occupata dalla fotonotizia per l'inizio di Pordenone legge, tre cerimonie per aprire la festa nel giorno giornale, anche 2 pagine in cronaca e 4 nello speciale cultura. Di spalla, oltre alla bambina intossicata dal diluente, la politica locale, l'incidente sul lavoro di Sesto Arreghena. In taglio basso anche qui il calcio, l'attacco va in gol, il Pordenone conquista Verona. Un appuntamento di musica classica alle 20.30 al Teatro Miela di Trieste, l'ultimo concerto dell'ensemble vincitore della 21esima edizione del premio Trio di Trieste è il trio Pantum, composto da musicisti di Francia e Corea del Sud. Il mare comincia a Udine, lo racconta il percorso artistico in 7 tappe tra le rogge della città che verrà inaugurato oggi alle 11 e sarà visitabile fino al 13 ottobre. Nato da un'idea della divulgatrice Elisabetta Milan, il progetto prevede in ogni sito un'installazione artistica ed un cartello informativo con un approfondimento scientifico, pensati per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente acquatico, ricordando che tutto quanto si getta in un corso d'acqua prima o poi finisce in mare. La passione botanica di Massimiliano d'Asburgo e della moglie Carlotta, illustrata dalla loro collezione di libri dedicati a piante, fiori e giardini. È il contenuto della mostra Ars Botanica, giardini di carta, allestita nella sala Focus On del Castello di Miramare, che verrà inaugurata stasera alle 18 e sarà visitabile da domani. Sguardi di donna 2.0, una carrellata di donne fotografate da grandi artisti. L'evento si svolge al Fotoclub 75 di San Floriano Gorizia con Giancarlo Torresani, operatore culturale ed esperto in lettura di portfolio. Inizio alle 20.30. Operazione Gladio, la rete Stevia End italiana di Alessio De Fina, presentazione alle 18 nella sede della Lega Nazionale a Trieste. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 il quotidiano appuntamento con Vue of Evelyn D, che parlerà dell'associazione MEC, Media Educazione Comunità, e di cyberbullismo e benessere digitale. Alle 11.20 con le mani, con i piedi, con il cuore. I programmi regionali tornano poi alle 14. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Eugenio Giuffrida e Mauro Coloni. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Da Francesca Terranova, Daniele Letti, Gerita Amicoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.